Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, benvenuti a tutti nelle nostre frequenze. Questa è Blu Radio Veneto e dagli studi di Padova vi parla Flavio Bilato, anche questa sera in compagnia di Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Un martedì bagnato, ma sì, non musicalmente parlando. Ma dicono che di solito quando si parla di sposa bagnata, sposa fortunata, anche in questo caso la serata è bagnata. Noi diciamo sempre marito fortunato. Eccoli qua, li abbiamo già. Eccoli qua, sono loro, arrivano direttamente da Carpi, ci hanno diciamo tagliato di brutto quella che poteva essere la loro degna presentazione, però li salutiamo perché sono simpaticissimi, sono i Blue Stress, arrivano da Carpi e chiediamo: avete fatto un buon viaggio? Beh, allora, ciao, sono Fabio, sono ciao Fabio, la voce dei Blue Stress al momento. Succede che io per fare 20 km ci ho messo tipo un'oretta, perché mi sono un po' perso io, un po' molta gente credo si sia persa tornando a casa, quindi però è lo stesso, quando si va in un bel posto il viaggio è sempre bello. Certo. E poi salutiamo anche Federico. Ciao. E salutiamo ciao anche Andrea. Ciao, ciao, ciao, ciao. Non ciao sono arrivati soli, sono arrivati in compagnia dei loro strumenti musicali, perché come si voleva dire all'inizio ai nostri ascoltatori, questa è una serata di chiacchiere ma anche una serata di live. Un live che ha la particolarità della presentazione di quello che è il vostro nuovo lavoro, che si intitola Buena Suerte, che sarebbe un buona fortuna. Buona fortuna, sì, nato per gioco. Io parlo già a ruota libera. Certo, cioè, certo. È giusto ecco, che sia così, è giusto. Sono di quelli da tirare via con l'uncino. Nato per gioco, perché il nostro Andrea Ferrari alle percussioni, che non c'è qui stasera ma che salutiamo, era solito raccontarci una serie inenarrabile di sfighe di settimana in settimana, sì, e quindi la canzone doveva servire ad esorcizzare lui. Poi pian pianino abbiamo pensato che poteva crescere ed è diventato un disco. Certo, un grande ritorno dopo la precedente esibizione, un live infinito, oltre mezzanotte, le porte erano sempre aperte. È stato un live infinito quel giorno che abbiamo parlato, che abbiamo discusso, che abbiamo ci siamo divertiti quel giorno, cosa dici Fabio? Infatti io credevo che ne avranno avuto abbastanza, chissà. E invece no. Invece no, invitati un'altra volta, perché ricordiamo i Blue Stress sono venuti qui un po' di tempo fa a presentare allora quella che era la produzione vostra, mi sembra targata 2008, quindi Opinioni di un Valzer, se non vado errato. È vero, avevamo quello e stava nascendo questa cosa qua, invece... È un embrione questo che all'epoca era in cerca di casa e casa l'ha trovata. Un po' gliel'abbiamo trovata noi, un po' ci hanno aiutato e abbiamo tra le mani questo splendido lavoro che tra l'altro ha fatto veramente un sacco di strada, perché penso si possa dire è prodotto in Repubblica Ceca. Ah, però... La globalizzazione avanza inesorabilmente. No, in realtà questa è un'azienda, insomma, non diciamo il nome, comunque lavorano piuttosto bene, ci hanno fatto un lavoro ottimo, prezzi modici. questo è l'importante. Perché... Quando si parla di autoproduzione è molto importante. Molto, molto importante, anche perché quando avevamo parlato appunto di una vostra prossima presenza in radio, e ci avevate inviato come Blue Stress un CD, diciamo, qui comunque si sente comunque bene, amabile, sempre con Buena Suerte, e visto che c'era questo titolo grande davanti, sotto in piccolino CD in cerca di distribuzione. Sì. Che poteva Orfano essere considerato anche un sottotitolo in questo caso. Beh sì, ci divertivamo ora come allora, ma adesso... Non so come dire, non siamo più dei ragazzini, però è commovente, da un sacco di soddisfazione avere tra le mani una cosa che è tua. C'è un prodotto che comunque esce dalla tua testa, dal tuo tempo libero, è una cosa importante. Sì, avere un disco ufficiale in mano è una cosa meravigliosa. Tra l'altro adesso per un secondo non scherzo più, in realtà... Appena finiamo un paio di cosine ci sarà una distribuzione nazionale, quindi siamo molto contenti. Il tempo non è stato vano. Allora. No, siamo molto contenti. Siamo molto contenti. Allora questo album Buena Suerte avremo modo di ascoltarlo sia in versione appunto da CD, ma anche in versione live, appunto con la strumentazione presente questa sera, quindi con Andrea Solieri alle chitarre e poi ancora Federico Albonetti sax e armonica e ancora Fabio Govoni alla voce di Blue Stress. Allora direi facciamo ascoltare ai nostri ascoltatori una canzone, tanto per introdurli un po' su quella che è la vostra musica. Abbiamo scelto una traccia tra tante, erano tutte molto belle, molto valide, ovviamente, però sì, se no non vi paghiamo, eh. Certo, ecco, perché siamo anche pagati questa sera. Sì, esatto. Allora, no, ascoltiamo questa traccia che si intitola Un viaggio sul vetro e poi torniamo a commentarla insieme. Signore e signori, questa sera Blu Radio Veneto, ci sono i Blu Stress. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Metti una nave in mezzo al mar, metti un confine, un doganiere, troppi sogni, uno scafista da pagare e dalle spalle la tua terra di leoni. Metti il futuro in mano a Dio, con la speranza che qualcosa poi migliori. Alloggia la tua ingenuità nell'angolo più remoto dei calzoni. Metti che tutto vada bene con l'aiuto della mafia o di un buon prete. Avrai di fronte il bel paese, lavoro nero, le vetrine, i suoi barboni. Metti una borsa sulle spalle e nelle calze qualche grammo d'allegria. Mettici pur la polizia, la questura ed ore in fila ad aspettare. In una stanza riposare. Lui ti ricorda che sei un uomo, ma poi le donne sono in strada a lavorare. Ora che il quadro è completo, coi piedi sul vetro, non voltarsi mai indietro. C'è tra la terra e il fiore una storia d'amore che nessuno può giudicare. Se la speranza è un diritto, c'è un confine non scritto. Blu Radio Sera. è bastato un brano per addentrarci a pieno ritmo su quella che è la trasmissione di questa sera. Siamo con i Blue Stress, sono arrivati da Carpi per presentarci questo loro ultimo lavoro che si intitola Buena Suerte, e abbiamo ascoltato già questo Un Viaggio sul Vetro, scritto da Solieri, eccolo qua. Lui faceva finta di niente, ha nascosto. Allora, Andrea, dimmi, come sono nate queste canzoni? Così sono. Dunque, questa canzone non doveva entrare nell'album. Direttamente. Invece è stata la prima canzone che abbiamo pensato di inserire. Sì, e lì la colpa è di Fabio, quindi parla, ecco, con lui, e lui è il referente. Perché io. Allora, gli artisti scrivono le canzoni, poi dopo arriva, sì, come dire, il facchino che mette un po' assieme le cose, e sono io quello, no? Io niente, questa canzone quando ce l'ha fatta sentire la prima volta Andrea, che non era troppo convinto, io mi sono innamorato sia del tema che del tipo di groove, del suono che poteva uscire da questa cosa qua. Cioè c'è questo accompagnamento africano proprio, sì, no? Improvvisazione totale, non avete schemi, voi allargate considerevolmente tutto. Beh, il tentativo, insomma, la prova che si fa è comunque di utilizzare la musica per raccontare delle storie. Noi non abbiamo la presunzione di essere il musicista che dice senti come sono bravo, oppure anche quello, perché tanto ognuno ha questo tipo di vanità, e forse anche, no, forse è, bene, anche è bene che ci sia, è bene che ci sia, in primis, però diciamo nel nostro piccolo prima le storie, e poi se diciamo se c'è un virtuosismo che serva a quello, cioè la fine se stesso, certo. il viaggio di questo personaggio, scusate la rima oscena, è come dire la sua disperazione, la sua tra virgolette brutta fine giustifica lo sfogo strumentale che c'è nel pezzo, quindi per noi ci stava. Tra l'altro abbiamo avuto insomma una nota che ci ha fatto molto piacere. Sabato mattina sono andato a fare questa canzone in una piccola conferenza tenuta da un'associazione che si occupa di lavoro di donne immigrate, perché l'hanno sentita per via traversa, hanno detto ah, finalmente qualcuno che parla di noi, insomma, in una maniera che ci piace. È bello anche quando viene contestualizzato, insomma, quando viene recepito un messaggio che cerchi di dare, tra l'altro in tempi non sospetti, perché la canzone ha già qualche tempo alle spalle, e non ci aspettavamo che il giorno prima, tra l'altro, catturassero Gheddafi, che qualche mese prima, la primavera, insomma, tutto quanto, no? Sembra una ruffianata, ma è andata così. Bene. E quindi poi... ad Andrea in questo caso le parole, poi in principio mi piace, ci fosse la possibilità di fotografarlo adesso, Maurizio. Sì, adesso facciamolo subito, anche perché poi ricordiamo ai nostri ascoltatori che un po' di documentazione della serata sarà fornita all'interno del nostro sito bluradioveneto.it, e riportato anche sulle pagine di Facebook. Noi ne abbiamo una, si chiama Blu Radio Veneto Rock Wave, e all'interno di questo mettiamo diciamo il sunto delle interviste, le foto e tutto quello che succede. Però dovevate dirci delle foto che ci vestivamo meglio, giusto, sta roba. Beh, le ritoccherete al computer. Sì, esatto, sì, ma è bello così, al naturale. Naturale. Non vediamo mai su pubblicare il nostro foto. Ritoccarle, ma sai che roba è sta qua? Fantastico. No, comunque si diceva, Un Viaggio sul Vetro, tu avevi preso l'ispirazione molto tempo prima, come diceva. Sì, cioè adesso se vuoi ne parliamo seriamente. Di questo pezzo non ero convinto, perché io avevo il grosso dubbio che il testo potesse passare per una cosa leggera, no? Che questo tutto questo taglio ironico, diciamo, della prima parte potesse apparire come uno che voglia prendere in giro, e i miei dubbi sono sempre stati molto su questo aspetto, su questo punto. Invece l'idea del viaggio sul vetro mi è venuta perché pensavo ai fakiri, o quando abbiamo visto quelli che compiono questi viaggi, che comunque guardano sempre dritti e sono costretti a guardare sempre dritti, andare avanti e vedere se c'è una fine e qual è la fine. Io non ho mai visto un fakir o uno di questi girarsi indietro e guardare la strada che ha fatto. Tu devi solo andare avanti, e andare avanti in questo caso è sopravvivere. E quindi Un Viaggio sul Vetro parla proprio di questo, è un diciamo un testo davvero importante, e siamo fortunati ad averlo anche a corredo, il testo di quello che è il vostro CD. Nel libricino ci sono appunto tutti quanti i testi ben scritti, perché sono testi che parlano di gente, storie di persone. Ma l'idea proprio nostra è raccontare storie, cioè per me l'idea proprio è raccontare storie, e più possibile storie vere, o quantomeno o filtrarle tu con la tua, con i tuoi occhi. Però in generale tutto questo disco parla di storie vere, di persone vere, di persone. Dopo parleremo di un pugile sconosciuto ai più, parleremo di uno che è stato lì per diventare un professionista in bicicletta e non c'è riuscito. Cioè, storie di gente, che sono poi la mia e la tua, la storia di tutti. E dove l'avete catturate queste storie di gente? Come le avete carpite? Come avete sentito? Ci sono state delle... Ma per ogni canzone c'ha, cioè, dovrei star qua, davvero stiamo a spiegarle. Perché veramente... Sì. La cosa incredibile di oggi, no? E adesso apro una parentesi e dopo lascio riparlare Fabio, perché sennò muore lì che scappa. No? Pochi giorni fa ho io una nipotina di 8 anni e per il suo compleanno ho voluto il lettore MP3, no? Ed è stato incredibile, perché per la prima volta io ho riflettuto su una cosa. In 5 minuti io gli ho caricato 400 canzoni, no? E io pensavo, cioè, lei non, come fa a capire la fatica che faccio io, che sto su delle ore, no, a scrivere una parola perché quella parola non mi convince? Come fa a percepire questa cosa? Cioè, lei ascolta, mi piace un pochino, delete. Non mi piace, delete. Sì, sì, sì. Cioè, è per quello che fondamentalmente, secondo me, anche la musica oggi non è la stessa cosa per loro, non potrà essere la stessa cosa per loro che quella che è stata per noi, che ci tenevamo un disco... Era il nostro disco, cioè, è tutto diverso. Perché la musica non è più fatica adesso? Perché non è più fatica? Perché non è più fatica? Certo, non è più fatica. Però, piccolo sfizio, tra le 400 canzoni, 12 canzoni a caso. Io gliel'ho messe, però è libero arbitrio. Che poi le sappia riconoscere e tenere e non deletare. No, io lascio. Benissimo. No, però hai capito il concetto? Sì, certo. Assolutamente sì. Allora, stiamo parlando con i Blue Stress, sono venuti a trovarci da Carpi con i loro strumenti, e adesso diamo spazio a quella che è la vostra musica live. Con cosa si inizia? Con un'altra storia importante. Con un'altra storia importante, allora diamo tempo ai nostri... Che detta così fa Ramazzotti, fa anche schifo. Però Ramazzotti fa sempre bene, secondo una battuta di un vecchio pubblicitario. Vabbè, allora ci fate ascoltare qualcosa dal vostro Buena Suerte e noi... Sì, la presentiamo, lo diciamo dopo? Diciamo sì, che si chiama La Lettera, e diciamo che tra le persone... di cui parliamo, questa è una di quelle più famose. Questa è molto famosa. Coprotagonista di uno dei romanzi più letti della storia, direi. Poi dopo ne parliamo meglio. Vediamo se siamo tutti operativi. Sì. Poche righe non faranno che confermare tutti i miei perché, tutti i miei perché, tutti i miei perché. C'è chi scrive per amore, qualcun altro per dolore, altri solo per quadrare valori di sistemi economici, valori di sistemi economici. Questa lettera è la mia e nasce dall'amore, ma si perde in un futuro che non vedo, dentro quale mille rivoli di pioggia non portano mai al mare, perché c'è un dubbio che ti assale, perché c'è un dubbio che ti assale, sembra che faccio il falegname e trasformo il legno in mobili. Sarà che faccio il falegname e trasformo il legno. Immobili. Io lavoro il legno ancora prima di iniziare, già mi vedo il gran finale, ma questo è un figlio da educare che mi vedrà invecchiare tra gli sguardi della gente che sempre voglia di sparlare, che sempre voglia di sparlare. E nonostante la ragione c'è qualcosa che va oltre, che mi lega a te, a te che credi nella notte, nelle stelle e soprattutto agli angeli, soprattutto agli angeli. Ed è così che ad un passo dal burrone, poco prima di saltare, vorrei finirla questa lettera. Vorrei finirla questa lettera. Vorrei finirla questa lettera. E vi lascio firmando col mio nome. E vi lascio firmando col mio nome. E vi lascio firmando col mio nome. E vi lascio firmando col mio nome. Sono Giuseppe, il falegname. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato anche questo pezzo, si intitola La lettera, e verso la fine abbiamo capito chi era il personaggio che usa la legna per fare mobili, quindi un falegname, e un falegname d'eccezione, oserei dire. Dicevo, uno dei coprotagonisti del romanzo più famoso della storia. Certo, certo. Qual è il libro più diffuso? È quello. No, questo invece immagino, Andrea. No, invece... non mi permetto, qui non mi permetto. Informissimo, ovviamente. Io mi scuso, però. Sono le malattie di stagione. Sono le malattie di stagione. Dunque... l'idea che avevo per scrivere questa canzone erano due idee di fondo. Sì. Una che purtroppo nella fattispecie, guarda, senti che parola, Giuseppe il falegname viene sempre relegato come una figura marginale, è una figura piccola, una figura, e secondo me non può essere così. Nel senso, se io sono il figlio di Dio, mi scelgo un padre che deve avere due coglioni grandi come una casa. Scusate, cioè, detto proprio sì, così. Insomma, detto pane, pane, vino, il vino, come io sono. Prima cosa. E seconda cosa, mi piaceva raccontare che lui prende una decisione difficile. E oggi le decisioni difficili facciamo tutti fatica a prenderle. Nel senso, viviamo in un'epoca in cui prendere decisioni e posizione, perché una volta preso una decisione è difficile mantenerla. Quest'uomo comunque sceglie di accompagnare quella che sarà sua moglie in un percorso di vita e lo fa. E lo fa, cioè, ci sta. E ci sta ed è consapevole di quello che sta facendo, quindi non può essere un uomo piccolo o quantomeno una figura marginale. E a me piaceva molto, mi piace molto, è una cosa che mi fa molto riflettere, il fatto che tu prendi una decisione e la porti avanti con coerenza. E questi non sono tempi coerenti, senza volere dire fare brigata, cioè non c'è giudizio, attenzione, è solo constatazione. Anche perché quando ha avuto il mandato dall'alto, insomma, ha passato alcune notti insonni, penso. Ma penso, era un uomo, eh? Eh sì, era, cioè, un uomo. Ricordiamoci, certo, che parliamo di uomini, no? Con delle sensazioni, con dei dubbi, e io mi immaginavo lui, adesso era una cosa, cioè, se dovessi mai fare un video, io immaginavo lui come la scena di Thelma e Louise alla fine, sì, no? Su sta macchina che scrive sta lettera e poi si butta e prende la decisione, cioè il fatto di buttarsi e dire ok, vado, cioè, sto, salto nel vuoto. Certo, certo. E l'idea di colorare il pezzo così importante, con un testo così significativo, con questa musica, come è nata, come si è sviluppata? E si sviluppa anche lì, dimmi. Vogliamo sapere tutto, sapere tutto. Il mio, sì, in origine nasce come un rap. Ah, come un questo rap. Questo pezzo proprio nasce come un rap, perché volevo che arrivassero solo le parole, sostanzialmente, certo, mi interessava. Poi Fabio, il rap non è una cosa che ama, particolarmente. O quantomeno se lo ama non se lo sente nelle sue corde. Quindi abbiamo trovato un compromesso, no? Se avete notato anche a livello armonico, cioè il pezzo, diciamo, a confronto di come è il nostro modo di lavorare, è molto diverso, sì, nel senso, è sostanzialmente un monoaccordo che ha pochissime variazioni. Posso dire che Fabio lo recita quasi questo pezzo. Perché deve essere così? Perché nasce come un rap, cioè nasce come una lettera. Cioè sostanzialmente lui, Fabio, arriva dopo che la macchina è saltata, trova questa lettera e la sta leggendo. Questa era l'idea del... Come è nato il pezzo? Quindi questa è una lettera lasciata ai posteri da lui. Dopo questo avvenimento così, sì, importante. Esatto. E poi verso la fine Giuseppe, il falegname, era sempre molto arrabbiato, ma più che arrabbiato era sempre più convinto. Esatto, non è arrabbiato, non è assolutamente. Era convinzione e proprio decisione al massimo, che a volte confina un po' col sentimento anche un po' della rabbia e dell'impulsività. Faccio fatica a vederla così. Nel senso, una decisione ponderata e ragionata non è una decisione impulsiva. Io credo che sia impossibile mettersi nella testa di quell'uomo, no? Partendo dal presupposto che tutti i fatti narrati siano così, sì, no? Sì. Io mi sono sforzato di mettermi nella tua testa. Allora, se ti dicono sposati questa che è incinta ed è incinta di uno, di un angelo, cioè a me, scusa, nel senso, sì, no? Sì, sì, sì. Dico sì, va bene. C'era dell'incredulità, insomma. L'angelo sti due maroni, ti rispondo, hai capito? Cioè, certo. No. Certo. Ok. Vabbè. No? Nonostante il dubbio, hai capito, che angelo sì, no? Lui la prende. Cioè, per me, nella sua testa, il dubbio può essere rimasto. Capisci cosa voglio dire? Certo, certo. No? Però ti accompagno lo stesso. Cioè, mi tengo anche il dubbio, però ti accompagno. Lo scoprirò strada facendo. È una scommessa che fa anche con se stesso. Sicuramente sì, secondo me è così. Evito. Poi mi piace comunque anche la sua interpretazione, il fatto della determinazione che possa assomigliare alla rabbia. Cioè, se vuoi, noi spesso parliamo anche di sportivi, soprattutto se sono campioni con la C minuscola. E è vero quello che dici, però come dire, la linea di demarcazione è sottile. Cioè, io sono uno di quelli che pensa che la competizione è sana solo quando non si vince niente, quindi non sono competitivo. Ho capito. Però il fatto che una persona molto determinata possa sembrare anche arrabbiata in un certo nel senso, magari molto anni 70 del termine, sì, ci sta. Cioè, comunque quello che voleva uscire da qui era... L'abbiamo poi già detto, dai. La determinazione. Abbiamo ascoltato La Lettera, uno dei pezzi che all'interno di questo nuovo lavoro dei Blue Stress. Buona suerte. Mi dovete dire una cosa: è vero che ogni volta che vi chiedono come mai il nome Blue Stress, voi date sempre la colpa alle vostre fidanzate, mogli? È vero. Ma perché vi sentite più blues o più stress in questo caso? No, perché eravamo sia blues che stress per loro. Ah, okay, ho capito. Perfetto. Quindi dei musicisti che però, pensando troppo alla musica, regalavano pochi momenti, diciamo, alle signore. Regalare stress non è simpatico. No, non è vero. La verità è questa, che sì, c'era un modo di dire un intercalare un po' di anni fa, che ogni tre parole dicevi che stress. Ah, ah, certo, sì, è vero, okay? Sì, è vero, sì, esatto. No, allora... Andiamo a suonare, e loro, che stress. facciamo blues, che stress, da lì è nata. Ok, allora ci ascoltiamo un altro pezzo che a quanto pare dal titolo è dedicato a una donna, lo sentiamo dal CD, tanto per rendere partecipi già gli ascoltatori, diciamo che il brano si intitola Lei e l'abbiamo preso da questo nuovo CD dei Blue Stress che si intitola Buena Suerte. Blu Radio Sera. Thank you. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato anche questa traccia, si intitola Lei, a cantarla e a suonarla sono i Blue Stress, il loro ultimo CD, la loro ultima produzione si intitola Buena Suerte, noi la stiamo ascoltando insieme a voi all'interno di questa programmazione serale di Blu Radio Veneto che si intitola appunto Blu Radio Sera. Ancora buona serata da Flavio Bilato e Maurizio Casavalli. Flavio, parlavamo con Andrea, con Federico e con Fabio della caratteristica musicale di questo pezzo. È un pezzo pop, sì, poteva essere un pezzo pop, ma non è effettivamente un pezzo pop. Ha l'andamento del pezzo pop, poi nell'interno del pezzo il discorso del pop svanisce. C'è una caratteristica vostra, è quello di fare uno schema iniziale e poi svanire completamente lo schema. Stravolgere il dettame schematico. Io lo prendo come un complimento. Io l'ho sentita così. No, infatti la cosa che dicevamo, si spera di non scontentare tutti facendo così. Nel senso, io massimo rispetto per tutti i generi e le forme musicali. Il discorso fatto prima sul rap è proprio una roba che io forse non ascolto, ma soprattutto non faccio perché penso di non essere in grado. Certo. Cioè, è un linguaggio con cui ci si è confrontato, ci si confronta, che ormai è già diventato anche, cioè da Gil Scott Aaron, insomma è un po' che c'è. Ma non è il mio, e qui lo stesso discorso, io non mi sento, io e nessuno di noi si sente, penso di parlare a nome di tutti, il portatore del nuovo messaggio, né sonoro né ma tantomeno non crediamo di essere fuffa. E quindi fortunatamente questa cosa viene fuori come espressione artistica, non so bene come collocarla, non serve la collocazione, esatto. Siete voi e basta. Ma collocata nell'aria, si ascolta come tutta l'altra musica. E chi era questa lei che si cantava? È un'amica di Andrea. Allora, facciamo un passo indietro, sì. L'autore principale di tutti i pezzi è Andrea. Sei tu, Andrea Soglieri. Sì. Io do una mano e poi arrangiamo tutti insieme, in grosso modo. Questo è l'inter. Democraticamente. Ma abbastanza. Abbastanza, sì. Sempre meno col passare degli anni. Esatto. Perché è più produttivo, però già abbastanza. Semplice, democrazia. Andiamo incontro a una dittatura presto. Federico parla poco però stasera. Federico ha fatto problemi, i suoi problemi. Stasera, no, lo abbiamo recuperato in extremis. Fino sabato avevamo una serata e lui a un certo punto mi telefona la mattina e dice: io non ce la faccio. E quindi l'abbiamo recuperato per oggi, fortunatamente. Ho detto: ok, dal vivo ce la possiamo fare, ma in radio abbiamo bisogno di te. Anche. Bene. Quindi parlavamo del discorso che Andrea scrive quasi tutti i pezzi. Insomma. Sì, diciamo che poi. Scusa. Poi ogni tanto mi faccio aiutare da mio cugino che si chiama Semellini. Ci sono alcune cose anche da lui firmate, ma in linea di massima, insomma. Il concetto, le idee nascono a me, poi dopo io non le sento neanche mie, nel senso che questa è una roba un po' difficile da spiegare, però cioè, dopo diventa un patrimonio del gruppo. Questa è una cosa molto bella, tu hai detto, diviene patrimonio del gruppo, è fondamentale secondo me. Ma secondo me sì, cioè, nel senso io non riesco a pensare alle canzoni senza di loro, le canzoni non vivrebbero, cioè è una cosa abbastanza così. Ragazzi, cioè, nel senso adesso i Blue Stress esistono da 15 anni, ormai entriamo nel 16°, insomma vuol dire qualcosa, la storia comunque ha un suo perché, cioè, e noi ci siamo cambiati, chiaramente perché le persone, però insomma il senso è sempre stato quello, cioè, quando uno portava una cosa in saletta diventava di tutti. Cioè, dopo parleremo di un libro che ha scritto Federico, sì. Da cui noi abbiamo tratto uno spettacolo. Cioè, per me è la stessa cosa andare a portare fuori il libro. Cioè, è Blue Stress, è un'altra cosa dei Blue Stress. Ma nel senso, mi piace che tu mi chiedi una cosa da dove nasce lei, però cioè, può anche risponderti Fabio, che uguale. Alla fine di cognome facciamo Blue Stress. Ecco, certo. Bello questo. Un'officina. Sì, secondo me è così. Poi, nel senso, lei è una canzone alla quale io tengo particolarmente perché io l'ho scritta in quel momento per dar sfogo a una tensione che avevo dentro, no? Ed è dedicato a una persona, a una mia amica alla quale tengo veramente tanto, e che una sera viene a casa mia e mi dice: ho 29 anni, mi hanno trovato un tumore. e insomma immaginate voi tutti i pensieri, e io avevo stomagone che mi sono portato dentro finché lei non se n'è andata, non so che ora di notte. E l'unica cosa che io riuscivo a immaginarmi, che l'unica cosa che avrei voluto dare è ritornarla bambina e ridargli un altro futuro. Lei certo, è questo, certo, capito? C'è certo. Proprio l'idea di una persona che tu, alla quale vuoi bene profondamente, di fronte a una cosa del genere, lo sgomento, perché comunque ti dico, io l'ho scritta di getto appena lei è uscita da casa mia, cioè nel senso, proprio perché avevo stomagone dentro e non sapevo come. Cioè, le canzoni sono terapeutiche, ragazzi, certo, certo. Bisogna che ce lo diciamo, nel senso. Assolutamente sì, sono terapeutiche in primis per chi le scrive, per chi le interpreta e poi naturalmente per chi le fa proprie, diciamo. Esatto. Perché come dicevi tu, quando escono da casa mia le canzoni sono patrimonio da prima del gruppo e poi diventano patrimonio di tutti quelli che vogliono ascoltare e che in qualche maniera entrano in contatto con la vostra musica, col vostro disco, e quindi scelgono una delle 12 canzoni come, come loro canzone. Ma io ti giuro una cosa, cioè adesso io... Allora, Mozart, sì. No, che era Mozart, diceva le canzoni sono nell'aria, io le prendo e basta, no? Io questa cosa in realtà credo sia vera, cioè adesso lui l'aveva detto, io credo che sostanzialmente sia vero, credo che ci siano persone che in momenti o per sensibilità abbiano la capacità di catturare, no, qualcosa che c'è, no? L'africano, io l'ho percepita 2 anni prima, ma è una roba che era già nell'aria, cioè nel senso arrivava, no? Ok? Sì, sì, sì. Cioè ti dico questo perché delle volte a me capita di ascoltare cose che ho scritto, no? E dire non l'ho scritta io, ma io te lo giuro che questa cosa è vera, cioè la riascolto e dico non è mia, cioè perché è già, cioè non so spiegartelo, però perché non... dipende, si costruisce in un determinato stato d'animo quando ne hai uno successivo, perché la vita, diciamo, continua, elabora, improvvisamente non ti riconosci più. Non la riconosco più. Però fa parte del tuo diario. Ma certo, per amor di Dio, però... Vabbè. Guarda che è una roba veramente complicata, sì, da sì, spiegare. Sì, è complicata, cioè. Ci vorrebbe uno psicologo per smontare e riuscire a ricostruire appunto quello che è un pensiero molto, molto profondo di Andrea. Ecco, e allora noi continuiamo ancora con un pezzo. E cominciamo a parlare di blues e introduciamo il libro di fede. Esattamente. E poi introduciamo il libro di fede. Allora, intanto, un pezzo vostro. Cosa c'è questa volta che gira? Questo non è nel disco. Intanto lo diciamo. Non è nel disco, però è un pezzo al quale io tengo un sacco, no? Perché è il pezzo, secondo me, più blues in realtà che noi chiamiamo. Noi siamo partiti facendo veramente blues, blues proprio, io parlo blues canonico, no? Le 12 battute. Le 12 battute, so, tutto il resto, voi qua dopo possiamo parlarne finché volete. E la mia idea iniziale, quando ho cominciato a scrivere, era di riprodurre quelle sonorità con dei testi in italiano. Quindi io ascoltavo il blues John Lee Hooker e ascoltavo De André Fossati. Sì. Dicevo, ma perché non riesco a mischiare un testo in italiano di una certa levatura, cercando di dire qualcosa per quanto mi è possibile, però a quel modo, a quella modalità che io sento, cioè, che mi fa vibrare l'anima. Alla Hooker praticamente. Sì, su, capito. Su poi quel sistema là. Esatto, cioè la mia idea di fondo era proprio quella, partire con, cioè di dire io voglio creare un testo in italiano di un certo spessore, certo peso. Di un certo peso, su una musica però che a me fa vibrare l'anima, no? E il blues in questo senso in quel momento mi faceva vibrare molto. Poi mi sono reso conto andando avanti che il blues lo devono fare i neri e non i bianchi, primo. Sì, beh, purtroppo è così. Perché è così, è così, nel senso, così. Bisogna rendersi conto. Non c'è niente di negativo, è così. È basta. Che così, noi dobbiamo fare il liscio, il valzer e poco altro, sì. No? E poi è veramente una cosa complicata. Secondo me questo è l'episodio nostro, il meglio riuscito. Quello che dico, questa è quella, è la cosa che ci si avvicina di più. E allora ci tengo veramente tanto e se posso le facciamo infilare sempre. Vai. Ok, allora con i Blue Stress questo bel pezzo di Sano Blues. Mm-hmm. volte che non riescono, parole che non so pronunciare. Il tempo che passa e non segna, due mani che non sentono più. Quante cose troppo vuote, quante cose per il cuore. Ferite che si riaprono, tensioni che mi girano in testa. Io cerco un riparo al sicuro e qualcuno con cui ballare. Ti ho trovata, ti prego, non lasciarmi andare. Io e te ci siamo incontrati ballando. Io e te cercati, trovati ballando. Io e te salvati dalla confusione. Io e te, io e te, noi due. Che non dimentico nella gelida e divisa Berlino, e tempo fermato da cornici d'argento, ma noi siamo ancora qui. La danza è iniziata, la musica non smetterà. Io e te siamo incontrati ballando. Io e te cercati, trovati ballando. Io e te salvati dalla confusione. Io e te, io e te. Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato un pezzo decisamente blues, a proporcelo sono i Blue Stress in questo martedì 25 ottobre del 2011. Ancora buona serata a tutti da Flavio Bilato, Maurizio Calzavara e dai Blue Stress che sono venuti a trovarci direttamente da Carpi. Sono Fabio Govoni alla voce, Federico Albonetti sax e armonica e ancora Andrea Solieri alle chitarre. Flavio, dicevo allora, ma come mai un pezzo di questa intensità non avete messo nei vostri dischi? Ma come mai? Qual motivo? C'è un motivo atavico dentro nascosto? Ma in realtà dimmi. Dicevamo, questo è il nostro primo vero disco, no? Sì, quello disco completo, disco, possiamo dire. Quello che sembra vero, come tutti quelli che si comprano nei negozi. Sì. Poi abbiamo fatto altri 5 piccoli album. Il più, diciamo, quello che assomigliava di più a un disco vero è il precedente a questo. Non è un disco, cioè, nel senso, è una cosa strana che serviva a sonorizzare un romanzo che il buon Federico ha scritto. E in cui abbiamo utilizzato questa canzone. Nel senso, ci sono. Lui ha scritto una cosa meravigliosa che si chiama Circa Blues. Che tra l'altro potrebbe essere forse la migliore definizione di noi stessi, che siamo circa blues, non siamo blues. E poi magari. Circa Blues è un romanzo, sì, intanto. Sì. Diciamo che è edito da Il Filo. Sì. Sì. Ed è la storia di un amante di blues che torna a casa una sera col suo motorino. Sì, è una storia un po' complicata, perché mi piace mettere tante cose dentro, fare delle specie di minestroni, poi ognuno ci vede. Tipo quello... una Alice nel paese delle meraviglie. Sì, una specie. Comunque, il progetto era nato perché, adesso non mi ricordo più, ma avevano chiesto di fare... noi come Blues Stress, di fare qualcosa sul blues, insomma, una specie di lezione sul blues. Insomma, a me faceva un po' ridere, perché insomma, noi che abbiamo le ossa rotte dalla nebbia della Paduna Padana, insomma, andare a scrivere sul blues, insomma, è difficile. E allora ho detto, ma proviamo a inventarci una storia. Allora questa storia vede una persona, come può essere una persona qualunque, con i suoi problemi quotidiani, e un giorno si trova perduto nella nebbia, si trova al cospetto di un circo, e in questo circo, tra i tanti personaggi bizzarri e strani, incontra un vecchio suonatore di blues che, miracolo vuole, che è ancora vivo dopo 150 anni, e insomma, si confrontano, c'è questo racconto e comincia questa storia. È un certo Sonny nato nel Mississippi. Sì, signore è lui che le ha passate tutte dall'argine a mettere giù le traversine del treno, insomma, tutto il cotone, le ha fatte tutte, la galera, tutto rigorosamente blues, comunque. Sì, tutto blues, però insomma circa, nel senso che circa perché c'è il circo, ma anche circa perché si avvicina, insomma, è una roba che, come la posso aver vissuta io, insomma, è una roba così, vista attraverso i film, attraverso le letture, la musica. Poi va detto, per inciso, qui lo dico anche, che io non è che sono un grande amante di blues. Infatti a me piace scrivere anche di cose che non tanto mi piacciono. Infatti ho scritto anche una roba sul pugilato, che a me il pugilato si sa che non piace, però l'ho scritta un po' perché Fabio mi ha spinto, mi ha curato, e mi ha catechizzato, e insomma, comunque ho scritto anche queste cose qui. E però sì, io non sono un grande amante, anche se uno che suona l'armonica dovrebbe essere un amante sfegatato del blues. Ma lo suoni assolutamente, lo suoni. Se vuoi imparare l'armonica devi ascoltare il blues, certo. Non c'è verso. Ho provato con De Gregori, non suona l'armonica. Dobbiamo sottolineare che De Gregori è sempre stato chiamato il Dylan italiano, e di là si sa dove proviene. Sì, certo, cioè, no, infatti, da lì non impari a suonare l'armonica. Così, ma senza voler fare certo, un appunto a nessuno. Sì, sì, sì. Però se vuoi suonare l'armonica, bisogna che il campo loro, è quello. E quindi, però, non sono un votato. Ecco. Anzi, non mi piace, mi trovo bene, e forse più o meno tutti, nessuno di noi, non ci sono integralismi musicali. Certo. Insomma, è importante anche quello. Sì, il gruppo, infatti, il una dittatura non sarà mai una dittatura. Sì, blues stress, non ci sono giustamente integralismi. Sì. Cioè, il blues sì, però ci sono tanti altri risvolti della nostra musica, certo, chiaramente. Sì. Certo, sono risvolti che abbiamo imparato a conoscere in questa sera, perché appunto si ricordava che i Blues Stress erano partiti nel 94 rigorosamente blues, facendo entrare un po' alla volta delle sonorità anche elettriche, per rendere, diciamo, più forse agevole anche il percorso di un ascoltatore comune che magari non è proprio così riversato verso il blues, ma vorrebbe un pezzo un po' più pop per una facilità d'ascolto. Ma in origine proprio, cioè, in Blues Test nascono come proprio quartetto di blues, no? Rigorosissimo. Poi man mano che nascevano, prendevano corpo le prime canzoni, ti rendevi conto che quella struttura non era sufficiente e quindi negli anni sono state cambiate diverse line-up, va bene? Bello, si dice giusto, si dice così, all'americana, mi pare giusto. Ok. Line-up, scusate. Se no è synapse. Quelle cedono un po'. Vabbè, line-up. Va bene. Va bene. Quello era il senso. Certo, certo. Era figo a metà, va bene? Così abbiamo spiegato. Circa figo, era circa figo questo. Allora, quindi dal blues rigoroso a, chiaramente a tante altre cose, nel senso. Poi siamo arrivati a un momento nel 2003 che eravamo in 9, quindi un bel gruppo nutrito, eravamo un'orchestra sì, veramente in tanti. E poi dopo invece io proprio, e questa è stata un'esigenza mia, ho proprio voluto tornare indietro, nel senso che c'è un certo punto ci siamo trovati in cucina io e Fabio a dire bene adesso cosa costruiamo, cioè, però partendo di nuovo da delle voci a chitarra, insomma abbiamo fatto un po' di mesi proprio di full immersion nella mia cucina io e lui da soli, poi pian pianino abbiamo montato anche il resto, però io proprio a un certo punto ho sentito l'esigenza, cioè i Blue Stress erano diventati un gruppo cover dei Blue Stress. Ah, ho capito. E Vito era diventato una roba... Quindi avevate perso le vie guida, insomma. Sì, eravamo diventati veramente simpaticissimi, ci siamo divertiti, però da un punto di vista artistico secondo me avevamo perso un po' la fisionomia della band, che doveva essere così. Esatto. Ascoltiamo un altro pezzo dal disco per prendere un po' di fiato, diamo spazio alla traccia numero 6 che si intitola Chiedi alla polvere. Ecco, questa sì. È una canzone che ha veramente ancora, ritorna un po' a casa, nel senso, sì. A livello di sonorità blues. Ah, bene, allora ce l'ascoltiamo da Buena Suerte e i Blue Stress con questo Chiedi alla polvere. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Nascoste qual è il loro profumo. Chiedi alla polvere sospesa per aria dal fumo dei bombardamenti. Com'erano gli occhi impauriti, la pietà sepolta dov'era. Stampava le ombre allungate al tramonto di un nonno e un nipote assorti nel sole a sognare. Chiedi alla polvere smossa che lascia una traccia di recente passaggio, un messaggio che resta a chi passa e sa dove guardare. Chiedi alla polvere su scarpe chiodate lasciate nel baule in soffitta, come han fatto le suole metro su metro dal fango a tornare. Chiedi alla polvere che veste vuote bottiglie sopra un bancone, un velo di grigio e il suono lontano di troppe parole. Solo altro vento a segnarti la faccia, solo altro vento a segnarti la faccia. solo altro vento a segnarti la faccia e lasciarti da solo. Solo altro vento a segnarti la faccia. Solo altro vento a segnarti la faccia. Solo altro vento a segnarti la faccia e lasciarti da solo. Chiedi alla polvere rappresa sulla finestra infranta da un sasso. Chi guardava attraverso quel vetro, chi aspettava oltre il mare. Chiedi alla polvere che si leva in volo così all'improvviso. Cadono le carte, galleggiano foglie mentre cambia lo sguardo. Sopra il tuo viso, sopra il tuo viso, sopra il tuo viso, sopra il tuo viso, sopra il tuo viso, sopra il tuo viso, e a lasciarti solo. Solo altro vento a segnarti la faccia, solo altro vento a segnarti la faccia. Solo altro vento a segnarti la faccia e lasciarti da solo. Solo altro vento a segnarti la faccia. Solo altro vento a segnarti la faccia. Solo altro vento a segnarti la faccia e lasciarti da solo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E questo è il pezzo, si intitola Chiedi alla polvere. Abbiamo sentito proprio sul finale del pezzo proprio il vento che spazzava via la polvere e che ne alzava di nuova. Sono i Blu Stress con noi, sono da Carpi, la presentazione del loro disco sta proseguendo, si intitola Buena Suerte, non è il primo loro disco, vengono da una lunga e prolifica diciamo carriera musicale dal 94. Quanti dischi sono? 6, 7? Sono 6 in realtà, di cui, come dicevo prima, poi ci accavalliamo perché tanto vogliamo dire tante cose. Sì. Uno non è un disco vero e proprio, nel senso che comunque ci sono cover blues, canzoni nostre e dei brani recitati perché fanno parte di uno spettacolo teatrale appunto di Federico. Che abbiamo tratto dal romanzo di Federico. Questo è proprio il disco compiuto. Questo è il disco. Insomma, se ci deve essere, se deve essere mandato in orbita qualcosa che testimonia Blu Stress, direi che insomma mandiamo questo. Ed è per questo motivo che il nostro direttore artistico Alberto Pisco, che ha voluto fortissimamente la band stasera. Lo salutiamo e salutiamo anche la Rossella che segue sempre il programma. Nonché fornitrice di giornali. Esatto, la mattina è sottoscritto. Ogni mattina sono gli unici due in piedi a una certa ora al mattino, lei, Rossella e Maurizio. Allora, Blu Stress, per conoscere qualcosa di più sul gruppo, che non diciamo questa sera, c'è un sito internet. C'è un sito internet in costruzione, nel senso che assieme, adesso diamo la notizia bomba, stiamo finendo di progettare il sito e quando sarà pronto faremo diciamo l'uscita ufficiale. Pare nazionale, bene. Queste parole grosse, no, perché davvero abbiamo trovato una grossa mano nella Z Factory che ci darà una mano nella distribuzione tramite Venus, insomma siamo messi di fianco dei nomi anche importanti. Venus è un'ottima distribuzione. Infatti siamo molto contenti. Quindi un attimo che ci organizziamo con le robe, tanto ormai se non hai un sito... c'è niente a fare. È meglio non avere la carta d'identità, ma il sito ci vuole. Quindi stiamo finendo quello e poi partiamo con con l'uscita vera e propria, quella che si diceva una volta, il disco esce il giorno X, voi saprete quando il disco uscirà, comunque è questione di poco. C'è davvero comunque una pagina di riserva legata al MySpace, sì. Perché c'è il MySpace, sì. E soprattutto c'è Facebook, perché tanto lo Space è stato trucidato dall'avvento di Facebook ormai, come quasi chi lo usa, lo usano ancora lo Space, noi ce l'abbiamo, è lì che fa il suo mestiere, ci sono tanti video su YouTube, però si può dire che YouTube e Facebook hanno su internet hanno soppiantato un po' purtroppo lo Space. Anche perché su MySpace si possono ascoltare anche le canzoni di vostri precedenti lavori, sì, Rosa, sì. Rosa Destino del Sole, ad esempio. Del Sale. Del Sale, scusami, l'ho riportato sbagliato. Rosa Destino del Sale, poi ancora Troppo Mare e poi c'è il Fumattia. Stiamo sorridendo perché a ripensarci sono cose tutto sommato non di troppo tempo fa, ma che sembrano una vita fa. Sì. Sono comunque 5 anni, sì. Ma ci sono anche le ultime vostre, ce ne sono alcune, no. Tra cui c'è Buona Suerte e poi c'è Spezzettini. E poi c'è ancora Chiedi alla Polvere, che è il brano che abbiamo, ascoltato. Assaggi. Sono assaggi. Sono assaggi. Bene, sì. Ce la siamo tirata un po'. Chiedi alla Polvere, che ripetiamo, era il disco che ricordava il passato vostro praticamente. È una canzone che ha quell'input là che partiva da là. Che è quell'input che partiva da là. Esattamente. Bene, ad ora ascoltiamo ancora qualcosa live, ragazzi, visto che abbiamo la notte è piccola per noi. No, questa è la canzone più seria dell'album. Sì. Cioè, secondo me è la canzone che chiude l'album e che lo apre con la foto di copertina. Nel senso che l'ultima canzone è la copertina del disco. E la copertina del disco la presenta, abbiamo trovato una bellissima foto che un fotografo ci ha dato gentilmente senza nessun genere compenso. Di compenso in cambio di due dischi, perfetto, di un ottimo però. Cambio e la foto dell'album rappresenta la faccia di un bambino e una rotaia di un treno. L'ultima canzone dell'album parla di rotaie e di treni e di viaggi e Buona Suerte in realtà rappresenta anche un augurio a tutte le nuove generazioni, perché certe cose non abbiano mai più da capitare. E, insomma, ne parliamo dopo. Su questo treno che solo 3 anni e una stella sul petto. Mamma, dimmi dove siamo, dimmi dove andiamo e perché piangi stringendomi al petto. Che ci faccio io su questo treno che solo 3 anni e una bambola in pezzi. Mamma, dimmi dove siamo, dimmi dove andiamo e perché piangi stringendomi al petto. Dove siamo, dimmi dove andiamo. Mamma, dimmi dove siamo, dimmi dove andiamo. Mamma, dimmi dove siamo, dimmi dove andiamo. Mamma, dimmi dove siamo, dimmi dove andiamo. Mamma, dimmi dove siamo, dimmi dove andiamo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed ecco qua un altro pezzo assolutamente bello, molto, molto profondo questo disco, questo pezzo si sentiva anche dalla voce, oserei dire commossa anche di Fabio. Viene naturale, la raccontiamo. Sì, certo. La canzone è nata da una fotografia, sì. Una fotografia tremenda. Non così, come dire, ben augurante, anche se c'è anche di inquietante lo stesso questa foto nostra di copertina. Comunque è una fotografia tremenda che immortalava una donna che tiene per mano una bambina, che tiene per mano un bambolotto, che guardano un treno e il treno li porterà in un campo di concentramento. Quindi chi parla è questa bambina, che ovviamente non può fare altro che chiedersi che ci faccio io qui con la mia stella, la mia bambola e poco altro. Il pensiero è semplice e purtroppo io quando, come tutti i Blue Stress, quando ci troviamo a fare questa canzone, anche se un secondo prima magari siamo in un live, un secondo prima si è scherzato, che a me scatta la fotografia in testa non appena sento le sue note di armonica, io lì è finita, sono già dentro a quella cosa e viene naturale commuoversi, insomma. Mi ha fatto molto piacere quando l'ho spiegata a chi non aveva capito di cosa si parlasse e ho visto la gente piangermi in faccia. Ma insomma, so che non è bello, però è quello il mestiere di questo pezzo, insomma. Si intitola una stella sul petto. Ricordiamo che la stella era quell'identificazione del Jude in quel caso. Esatto. E qui l'avete ulteriormente rallentata, secondo me, decisamente rallentata. Questo è un altro pezzo che abbiamo trasmesso un sacco di volte, circa un mesetto, col pezzo precedente che abbiamo citato prima. Sì, l'avete ulteriormente rallentata per dare ancora più pathos, secondo me, questa serata. Ma perché dal vivo ti viene da farla, cioè in studio la ragioni. Certo. Dal vivo invece la fai magari a sentimento, come stai tu in quel momento, e spesso viene un pochino più appoggiata. Ho capito. Allora diciamo anche come sono le vostre serate live. Si scherza, si ride, ma anche c'è spazio anche per qualche lacrima, diciamo, anche in questo caso con questo testo così, così forte. Ma diciamo il vostro fan tipo è bello. Sì, ecco qua. È sicuramente una persona di un certo spessore. Sì. No, non... Beh, fa piacere almeno quello che sta capitando, stanno aumentando, ecco, questo è bello. Questo è bello, sì. E soprattutto sono fan delle canzoni, non vengono a sentire me, non vengono a sentire Andrea, non vengono a sentire Federico, vengono a sentirci tutti insieme e vengono per sentire queste cose, per sentire e risentire. Quello che fa più piacere è quello, vedere la gente che torna, perché vogliono risentirsi e raccontare questa storia da chi l'ha scritta. Ci divertiamo anche un sacco, perché non, per carità, cioè non sono concerti piagnisteo, anzi noi ci si diverte molto. La fortuna sta nel trovare i contesti in cui poter fare l'uno e l'altro. Certo. E alle volte si creano anche inaspettatamente, perché non necessariamente un locale che non ha la faccia da concerto raccontabile poi risulta non averlo. Il teatro è bello quando si è in teatro, però ci diciamo, sono convinto che sia il pubblico e il gruppo che creino l'atmosfera. Cioè alle volte ci si riesce a guadagnare il silenzio dell'ascoltatore anche in un contesto improbabile, perché arriva quell'emozione da parte anche della sincerità di chi lo sa ricevere. Certo. E quindi sono i concerti, diciamo, la base di partenza del vostro disco, nel senso di supporto, carta, plastica e CD all'interno. Questo da sempre. Sì. Anzi, cioè, io credo che proprio noi siamo molto più belli dal vivo che da disco, perché un disco tutte le emozioni non le riesce a contenere, come dicevi tu, cioè, noi cerchiamo di proprio di avere uno spettro di emozioni che va da, dalla cosa ironica alla cosa seria, nel senso Buona Suerte è un pezzo sostanzialmente ironico, no? E poi lo ascolteremo. E tra altre cose ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa puntata, in cui stiamo scattando anche diverse fotografie che poi ci faremo autorizzare dai Blue Stress. Assolutamente, prima dobbiamo vederle. Esatto, visionarle. Togliere un po' di rughe. Sì, una per una. No, ricordiamo i nostri ascoltatori. Dare un po' di luce, insomma, ragazzi, no, ma qua... Ce ne vogliono, sì, poi... poi qua ci vogliono. Vabbè, no, dicevo ai nostri ascoltatori che questa è una trasmissione che abbiamo anche registrato per dare la possibilità agli ascoltatori di risentire alcuni pezzi e di rivivere un po' queste che sono state le emozioni vissute insieme all'interno di questa trasmissione. Quindi l'appuntamento prossimo all'interno sempre del nostro sito bluradioveneto.it, nella pagina dedicata ai Blue Stress c'è lo spazio per scarica la trasmissione, si chiama così, un po' forte il... infatti non sì. È propriamente vabbè. Sì. Per riportare il discorso dei live, voi nei live trasformate i pezzi, cioè, secondo me è quello il fondamentale. Trasformate, cioè, il disco è in una certa maniera, il live li trasformate completamente, sempre rimanere nell'ambito del pezzo, però lo allargate a dismisura, come fate qua, mi pare giusto. Questo è il live, deve essere così. Anche lì c'è chi la pensa. Non sono d'accordo. No, chi che non la pensa in questa maniera? Io mi scontro spesso a trovare a parlare con delle persone che dice: ma io ho sentito quella cosa fatta così sul CD, voglio andarla a risentirlo uguale. Tu cosa dici? Per me non è arte. Ah, ok. Per me non è arte, nel senso... Il disco concettualmente puoi stare lì, lavorarci, sovraincidere, anche se noi non è che l'abbiamo abusato di sovraincisione, abbiamo suonato sostanzialmente dal vivo. Però cioè, tu devi dare quello che per te è il vestito di quel momento. Cioè, Fabio ha fatto quella cosa in teatro, hanno già dato un altro vestito a Un Viaggio sul Vetro. Adesso pensava già di miscelare il vestito. Cambiarlo completamente. Cioè, ma perché sì, ma perché è giusto? Come diceva Robert Wyatt, I'm not a museum. Se vuoi sentire il disco, c'è il disco dal vivo. Se non sarà sempre nuovo, deve essere quantomeno sempre vero quello che si fa. Esatto. Quindi... io adesso apro una parentesi, potrà piacere o non piacervi, mi sono andato ad ascoltare in questi giorni, perché me l'hanno fatto ricordare delle cose di Gino Vannelli. Sì. Cioè, tu vedi che ci fa delle robe che sono la stessa canzone, può essere jazz, swing, può essere in... cioè, lui gli tira fuori i colori che secondo lui in quel momento possono essere. Erano adatti per lui. Erano adatti per lui. Certo. Cioè, perché non possiamo farlo noi? Nel senso, le canzoni sono le nostre, facciamo quel che ci pare. Certo. Allora, stiamo piacevolmente conversando con i Blue Stress, c'è spazio ancora per un po' di canzoni da ascoltare. E scegliamo quella che dà il titolo all'album, che si intitola appunto Buona Suerte, e poi torniamo a commentarla in studio, anche se abbiamo già commentato molto di questa canzone. Blue Radio Sera. Senti volare la prima bestemmia, ti radi infelice, ti senti in disuso, ma è solo il sapore schifoso del latte scaduto. Martedì mattina nemmeno lo specchio si degna di darti un'occhiata, sei troppo depresso. Buona suerte amico mio, buona suerte amico mio, buona suerte, in culo alla balena. Sveglio mercoledì, sei di pessimo umore, e ripensi son mesi che non faccio l'amore. Ecco il giovedì con un muro di nebbia, in ritardo al lavoro, col capo che aspetta. Lungo le scale ti svegli e ti torna in mente, a hai lasciato sul mobile in casa chiavi e patente. Buona sorte amico mio, buona sorte amico mio, buona sorte, buona sorte. Sei solo un gregario, l'arrivo è tutto in salita. Il telefono squilla sempre più forte. Sabato è un giorno speciale per quella che era tua moglie. Non ci sono santi e ti devi davvero svegliare. Lei ti molla il bambino e ti devi arrangiare. Ed anche la festa per te Radio Sera. Blu Radio Sera. E questa è Buona Suerte, interpretata dai Blue Stress in questa serata di martedì 25 ottobre del 2011. E salutiamo anche tutti i cetacei in ascolto, visto che c'è stato un riferimento alla balena al suo posteriore. Speriamo ce ne siano tanti. Sì. Ho una notizia tremenda io. Oggi si è estinto il rinoceronte di Java. L'ultimo rinoceronte nero, un bracconiere ha pensato bene di sparargli. A me sta cosa mi ha preso malissimo. Anche a me. No. Anche perché era l'unico? L'ultimo. Perfetto. L'ultimo rimasto. Non ci avevano ancora pensato di fare. Ma come si fa? Come si fa? Io prenderei il bracconiere. Quando è che si estingue quello? Quello è bello. Quello mai, perché fa parte della razza umana e purtroppo non si può sapere all'inizio, in principio della vita, se una persona diventerà bracconiere. Penso che abbiamo già toccato questo elemento in una delle canzoni prima, no? Riguardo a questa trasformazione e a questa presa di coscienza riguardo a un'attività che si andrà a fare. Quella consapevole, vabbè, comunque non salutiamo i bracconieri in questo caso. No, assolutamente. No, allora, questo Buona Suerte parla un po' di una settimana. Sì, il racconto di una settimana tipo del nostro percussionista. Salutiamo Andrea Ferrari. Salutiamo Andrea Ferrari, salutiamo Gianluca Raimondi al basso. Michele Galli. Salutiamo Michele Galli, che è la new entry, e l'altra chitarra. Salutiamo Gianmarco Banzi, che è presente in questo disco alla fisarmonica al piano. E salutiamo anche Simon, dopo basta. Anche Simon, dopo basta. Basta, dopo infatti, leggi. Vi racconto una roba carina. Sì. No? Dunque, Fabio, che lui è Fabio, è bravissimo, perché lui tiene le fila di tutti noi che siamo un po' scompagnati. No? Quando c'è stato da impaginare il CD, no? Ha detto: c'è una pagina dei grazie, no? Sì. No? Quindi mando una mail a tutti dicendo: chi volete ringraziare? Dunque, a me quelle cose lì, onestamente, mi fanno un po'. Diciamo che non mi piacciono tantissimo, no? Però c'è stato qualcuno che gli ha risposto con due pagine di Word, no? Tutti i ringraziamenti. Io tutti i ringraziamenti, ho detto: adesso dalla a me che ci penso io. E ho fatto un riassunto che tu puoi leggere. Sì, sì, c'è scritto grazie a tutti quelli che ci sono sempre stati, grazie a quelli che qualche volta ci sono stati, grazie a quelli che ci saranno. E tra questi grazie ci siamo anche noi. Di certamente, tutti. Grazie, grazie. Ma non la formica che mi ha attraversato l'altro giorno alla strada. No, no. Va bene, allora questi sono i Blue Stress, anche nella loro simpatia. La presentazione di questo disco, buona suerte, spero porti proprio tanta fortuna a questi musicisti che la musica ce l'hanno nel cuore oltre che nel sangue. Allora facciamo un altro pezzo live. Sì. Per, parliamo di un argomento, sì, che a Fabio non interessa. No, l'argomento che si citava prima. Esatto, proprio quello. Il pugilato. Bravo. Ecco qua. Ebbene sì. Bene, visto che non interessa a nessuno, ascoltiamo il pezzo. Esatto. Aspetta, fagli dei due robe che mi metto a posto. Per l'amor del cielo. Diciamo solo sul personaggio. Un personaggio larger than boxing, Charles Norman Selby all'anagrafe e Kid McCoy nome di battaglia. Una vita straordinaria, dico solo quello. C'è Wikipedia, c'è tutto. Un personaggio incredibile. Alcune sue robe, alcuni suoi aspetti della sua vita sono entrati nel linguaggio comune corrente americano e nemmeno sanno, la gente nemmeno sa da dove viene. Cioè, è citato nei proverbi. Gli stessi pugili dicono delle parole che non sanno, che le ha inventate lui. Si dice che i pugili girano i colpi e lui dice di aver imparato a girare i colpi guardando un gatto giocare con una pallina. Bene, e poi anche c'è una, diciamo, una postilla nel vostro disco che dà appunto una spiegazione dettagliata di chi è questo Kid, di chi è questo Charles Norman Selby. Esatto. Eccola qua, la canzone si intitola Kid, Blue Stress. Destino, fermo al centro dentro un ring, le movenze del felino hanno il carattere di chi si muove gentilmente, ma poi ti sbrana il KO, ingannevole, divertente, mister Hyde, solo show, di me si dice che la gloria sia tutto ciò che ho. Sono un garzone di bottega che si diletta nella box. Di sangue ne ho sputato, mescolato nel sudor. A tradimento vi ho baciato e ne ho goduto anche di più. E così di dritto e gancio abbraccio la celebrità, dove donne come al miele sanno posare la magia. Ma l'amore è un treno in corsa e se non ci salti su, 8 anni a San Quintino non li scordi più. Nelle vene, in ombra agli angoli del ring, un silenzio che conviene per l'eternità. Vi lascerò un biglietto e sarà un canto alla follia, forse l'ultimo sospetto, l'ultima bugia. Ma la storia è un treno in corsa e se non ci salti su, entrerò nella leggenda per non scendere mai più. La storia è un treno in corsa e se non ci salti su, entrerò nella leggenda per non scendere mai più. Thank you. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E questa era la storia di un pugile, era la storia di Charles Norman Selby, noto come Kid ai più, e questa, e questi sono i Blue Stress che ne hanno cantato un po' la vita e le emozioni di Kid. Allora, una cosa che mi dovete dire ancora, ma i bambini che sono in fotografia in bianco e nero, mi riferisco alla foto del sotto CD, ecco. Non li riconosci? No, allora sì, penso di aver capito chi sono, però voglio una conferma. Siamo noi! Siamo noi, ecco, siamo qua. Noi. Bene, siamo quindi, noi. Sì, davvero carini. Ma i bambini di qualche tempo fa, quindi foto rigorosamente in bianco e nero che fanno... È incredibile pensare che siamo diventati così, È vero, Ci penso anch'io che ho la mia foto su Skype ancora da bambino di 6 anni in bianco e nero e con il pallone, perché abbiamo ancora un qualcosa di bambini all'interno, anche se stiamo invecchiando, anzi un qualcosa, penso, un bel po', credo, forti tratti, e tutto tranne la parte fisica. La parte fisica che almeno la foto ci rende partecipi a quella che era stata, diciamo, il nostro precedente passaggio. Il fisico è un promemoria. Esatto. La voglia di scoprire però non manca mai. Quello non è un promemoria. Però posso aggiungere, dimmi, una cosa? Sì. Quella foto è vero che rappresenta tutto questo, ma è anche vero che noi siamo anche molto attaccati alle nostre origini e alla nostra storia. E nel mio immaginario quella foto rappresenta la nostra storia. Cioè, certo. Nell'album precedente la foto era la foto dei suoi nonni. Ah, quindi c'è un collegamento. C'è sempre un collegamento con le nostre origini. E tra musica... le altre cose, tra le altre cose, adesso che ho sentito parlare di foto, in uno dei vostri video di YouTube mi ha colpito in particolar modo, all'interno del brano che andremo a ascoltare poi in finale di trasmissione, c'è una fotografia dove si vedono dei signori anziani con delle ombre di ballerini, di quello che erano stati, quindi è un'immagine molto forte quella all'interno. Secondo me è l'immagine che ci, una delle immagini che secondo me ci rappresenta. Cioè, nel senso, tu ti riferisci a quella dove ci sono due signori che passeggiano, dove tu sul muro vedi il loro danzare di un tempo, giusto? Giustissimo. E secondo me la nostra storia è quella, la nostra è per quello che prima dicevo, dal blues al liscio, nel senso liscio, valzer, nel senso di storia, della nostra storia, le nostre radici sono importantissime. Hai parlato del blues al liscio, però in questo pezzo che avete fatto, quello del pugile, ci avete messo un po' di punk rock anche alla fine, mi pareva. Leggermente un pizzico di punk rock alla fine. È vero. Tanto per cambiare le carte in tavola. No, non è per cambiare le carte in tavola. Nel senso positivo. No, non ti do ragione anche su questo. Vabbè. Almeno uno, voglio dire, Maurizio, che ti dà contro. No, perché il finale racconta l'incedere di Kid sulle... Cioè, quando mi ha mandato la storia da leggere, racconta proprio che quest'uomo sul ring si trasformava, diventava un animale, era veramente cattivo. Famoso anche per le sue scorrettezze, cioè il bello del personaggio è che ha veramente tante facce. Quando io dico è stato tutti gli uomini, perché c'è anche quello, cioè... Quindi c'era un motivo. Non è solo nobile arte, la sua è anche proprio la ferocia di quell'altro. Era proprio lui, era... Cioè, mentre fuori dal ring, c'aveva questa doppia... Dottor Jekyll e Mr. Hyde, e lo diciamo, no? Quando era sul ring era veramente... E allora nel mio immaginario era... Un animale, musica. Sì, il finale è questo incidente, cioè lui che te le sta dando e te le sta dando e non si ferma, perché lui in realtà... I libri narrano, perché parliamo del 1800, di questo signore qua, è vissuto a cavallo tra il 1800, sì, a cavallo tra i due secoli. Tra i due secoli, 1800, no, tra i 1800, due secoli lui, del 1800 sì, 1900, quegli altri due. Quegli altri due, sì. No? Perché, no? Sì. E la storia racconta che lui ci provasse gusto. Ah. Perché è diverso, c'è il pugile che lo fa e lo vedi che vuole vincere, ti mette giù. Invece no, lui trova veramente piacere a... A menare. Che poi è finito anche 8 anni a San Quintino, come si ricorda. Sì, ci sono. Il fatto che, secondo me, come nella storia del rock, una delle cose più belle è la contraddizione dei personaggi. Questo qui, per non parlare strettamente del pugilato, se no c'erano altre 7 settimane di trasmissione, è stato sia in prigione per omicidio che al contempo ha ricevuto medaglie d'onore per aver salvato non so quanti bambini che stavano annegando. Ha avuto in prigione, quando era in prigione, la buona condotta assoluta. Lui muore suicida nel 1940, quando al sorgere della seconda guerra mondiale dice: non è possibile che l'essere umano faccia un'altra guerra, e lascia un biglietto quasi incomprensibile in cui saluta tutti. Mentre pare che, insomma, cattivo come lui, per certi versi ce ne fossero pochi. È un personaggio assolutamente imperscrutabile, cioè come forse tutte le follie sono. Cioè, Chabrol diceva: è molto più interessante analizzare follie e stupidità che non l'intelligenza, perché l'intelligenza prima o poi capisci, certo, qual era, certo. Arriveremo a capire anche Leonardo, non capisci l'irrazionale, non capisci il matto, non lo capisci. Bene, andiamo ad ascoltarci allora un altro pezzo da disco, un pezzo che chiude in un certo senso la conoscenza di questo CD, un pezzo che dura veramente poco, perché in 1:40 c'è una concentrazione massima che andiamo ad ascoltare. Il pezzo si intitola Soffice, loro sono i Blue Stress. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Soffice il cuore che su di te, soffice la neve di novembre, soffice sospiri d'amore, riflessi da un vetro di soffice colore. Soffice. Le mani san chiedere scusa, mani che si chiedo scusa, le mani san chiedere scusa. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato anche questo pezzo, 1:40 di piena emozione. Questo si intitola Soffice, è il pezzo che fa iniziare l'album in questa maniera così intensa, in questa soft sing. Blu Stress sono stati con noi per la presentazione di questo Buena Suerte. E Maurizio, cosa devo dire? Io li ho visti un po' di tempo fa, non sono cambiati, anche sono migliorati, mi sono divertito un'altra volta e quindi sono felicissimo di averli qua. Perché? Perché c'era un motivo, abbiamo già detto precedentemente, perché finalmente il disco effettivo è qua, si sente, ecco, batte, quindi il disco effettivo è uscito, uscirà fra pochi giorni, ed è bello, bellissimo avere un disco, quei pochi negozi di dischi che ancora ci sono in giro. Ci sono, resistono, e questa è una cosa molto positiva. Ricordiamo come possiamo fare per entrare in possesso del disco in maniera lecita. Allora, in maniera lecita, davvero tra poco tempo, in tutti i negozi, chi non ce l'ha, cioè dove non ce l'hanno, potete richiederlo, e questa cosa è carina. Su iTunes, cioè su altri supporti che adesso sono dei nomi difficili, non ve li so dire, però iTunes quello di riferimento, il disco è già scaricabile. A pagamento, ovviamente. Sì. Comunque potete contattarci su Facebook. Su Emule, no? Su Emule non c'è, si spera ancora per un po'. Ci contattate su Facebook e poi dopo da lì trovate anche i nostri contatti personali ed eventualmente, se avete voglia di venirci a sentire, la cosa più bella è ci ascoltate e poi andate a casa con il nostro disco, se vi va. Magari autografato. Magari autografato, per chi lo vuole. Benissimo, allora noi ringraziamo ancora i Blue Stress, ringraziamo Grazie. Quindi Andrea Solieri, Federico Albonetti e Fabio Govoni, ringraziamo anche gli altri Blue Stress assenti, ringraziamoli per il bel disco che ci hanno fatto trovare qui e niente, buon rientro in quel di Carpi allora. Grazie mille. A voi, grazie, siete sempre fantastici. Prenotiamo un'altra serata noi. Sì. Grazie mille, c'è comunque sempre dello spazio per voi. Grazie. Benissimo, allora ancora grazie Blue Stress. Noi salutiamo da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Solito grande e caloroso ciao. Vi lasciamo assieme ai Blue Stress e assieme a un ultimo pezzo che è sempre dal loro lavoro che si intitola Buona Suerte. In questo caso ci ascoltiamo dal vivo. Un valzerino, sì. Si intitola Valzer delle Opinioni. Eccoli qua, i Blue Stress su Blu Radio Veneto. Grazie ancora ragazzi. Gioioso tra i riflessi del bicchiere, valzer che sbandiera gli striscioni, se Raul stasera cari vecchi ubriaconi, valzer dalle tasche sfondate di fiumi e di fossi, di piazze intabarrate, valzer così spesso da tagliare come la nebbia certe notti fitta fino al campanile. Valzer, contadino di paese, senza più niente di viennese, valzer delle opinioni. Valzer che odora di terra e va verso nord, presagio di guerra. Valzer di donne in bicicletta, sulle strade e nei campi, pedala la staffetta. Valzer del disertore fuori di casa, oltre l'argine a far lampi, a mangiare la rugiada e a non sapere se a dar battaglia a terre e case cielo a presaglia. Valzer che già l'avvenire c'è da fare, c'è da dire, valzer delle opinioni. Nessuno, soltanto coppie di vecchi appassionati. Valzer gioventù e malinconia, come certe partite tra scapole ammogliate. Valzer grasso che s'appiccica addosso, dalle lasagne al vino rosso, valzer delle opinioni. E valzer che non c'è più balera, ci sono le basi stasera, valzer delle opinioni. E valzer che già l'avvenire c'è da fare, c'è da dire, valzer delle opinioni. Valzer delle opinioni, delle opinioni, valzer delle opinioni. Ah, ah, ah.